Blue Radio, Veneto. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Ed eccoci qua, buona serata a tutti, benvenuti sulle nostre frequenze. Questa è Blue Radio Veneto, oggi è martedì 15 novembre del 2011. Io sono Flavio Bilato, assieme a me ancora Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, ormai tutti i martedì sera, tutti i mercoledì, tutti i giovedì siamo impegnatissimi perché arrivano sempre ospiti nuovi, ospiti che ci vogliono far ascoltare la loro musica e noi non vediamo l'ora di ascoltarla e di proporla soprattutto al nostro pubblico, perché diciamo che amiamo queste cose e soprattutto gli ospiti che vengono a trovarci. E in questa serata diamo il benvenuto a Jacopo Mineo. Buonasera Jacopo. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, sì, grazie Jacopo, se stai più vicino al microfono così riusciamo a sentire meglio le tue parole poi durante l'intervista. Perfetto. Ecco, allora, Jacopo Mineo, nonostante il cognome che si direbbe venire dalle nostre parti, arriva direttamente da Roma, quindi gli chiedo, hai fatto un buon viaggio? Un ottimo viaggio, abbiamo fatto un viaggio senza traffico, abbiamo usato la macchina perché oramai i treni qui in Italia costano un po' cari. Certo. Hai detto bene tu, insomma, vengo da Roma ma la mia famiglia è veneziana, per cui insomma back to the roots direbbero gli americani. Certamente. Torno agli origini. Tu usavi il plurale, siamo arrivati, abbiamo fatto il viaggio perché insieme a te c'è... Sono venuto con la mia metà che si chiama Giorgia Lepore, che è un'ottima cantante nonché attrice, per cui mi è venuta a spalleggiare anche vocalmente, perché canterà un pezzo del mio nuovo CD che si intitola Speranza. Bene, lo ascolteremo più tardi e quindi benvenuta anche a Giorgia Lepore. Grazie. Buonasera Giorgia. Ciao. Ecco, allora, Jacopo Mineo, questo è il tuo lavoro d'esordio, si può dire, targato 2010 e che si sta sentendo in giro. Beh, sì, lavoro d'esordio nonostante la non più giovane età, perché sono uno splendido quarantente, anzi 41enne attualmente, per cui un lavoro insomma di una lunga incubazione, però insomma grande soddisfazione nell'essere riuscito ad autoprodurlo, perché chiaramente è un lavoro totalmente autoprodotto in tutti i sensi, cioè in senso artistico, in senso economico monetario. Tocchiamo però... sempre il tasto economico monetario. Beh, diciamo, mi sembra un luogo comune in tutti gli artisti che vengono a proporsi. Sì, diciamo, potremmo anche abbandonare questa tematica perché è abbastanza annosa e non ci interessa molto, però insomma bisogna comunque anche dotarsi di strumenti economici per poter lavorare, certo, e fare questo lavoro e portare la propria passione su disco. Nella fiducia che poi ci sia un rientro, ma comunque è già un ottimo frutto quello di aver fatto un disco in proprio. Guarda, questo è assolutamente, mi toglie le parole di bocca, è proprio vero, nel senso che se un artista a 40 anni riesce comunque con tutte le difficoltà del caso a mantenere il filo rosso della musica nonostante lavori anche differenti e fare il primo disco, vuol dire che insomma la musica ha un grande potere sulla vita delle persone, sia di chi la fa sia di chi l'ascolta, insomma. Tu hai parlato di incubazione e nella biografia abbiamo citato gli incubatori, e parliamo chi sono questi incubatori, quelle persone che davano la possibilità agli emergenti di far sentire la loro voce. Quindi parliamo del Folk Studio, Jacopo. Sì, parliamo del Folk Studio e di tutte quelle strutture come le grandi case discografiche, cito la RCA per dirne una, che in tempi passati, negli anni 60 e negli anni 70, aiutavano tutti i giovani imberbi rampolli della futura musica italiana a muovere i primi passi, e per cui l'incubatore perché? Perché erano delle grandi strutture, delle grandi persone Mi viene in mente Lilli Greco per dirne uno, che insomma ha contribuito al fatto di portare al successo e comunque alla notorietà tante persone importanti. E anche citavi Vincenzo Micocci. Vincenzo Micocci è tutta una genia di persone che comunque hanno speso del tempo e dell'arte nel praticamente aiutare tutti i giovani artisti a esprimere delle capacità che all'epoca erano solo, diciamo, latenti quasi. C'erano chiaramente tutte le caratteristiche per poi diventare degli autori importanti, però sono stati molto aiutati. Questo chiaramente è molto anacronistico per quanto riguarda adesso, perché qui l'autoproduzione è totale, cioè diciamo il fatto che un artista possa arrivare a 40 anni, come nel mio caso, a fare un disco, significa che in tutto questo tempo ha dovuto fare l'incubatore di se stesso, si è dovuto incubare, e per cui sostanzialmente come una gallina che viene accudita con il caldo della chioccia, insomma, sostanzialmente poi alla fine, se mantiene il filo rosso della musica e della passione, riesce a partorire, insomma, un disco anche a un'età non più giovanissima, insomma, anche se dentro siamo giovanissimi. Cioè, assolutamente sempre. Però... Allora, ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando, abbiamo appena iniziato, ma siamo già dentro l'intervista, stiamo parlando con Jacopo Minio per la presentazione del suo lavoro che si intitola Speranza, e pian pianino fino alle 10.30... cercheremo di capire qualcosa di più della musica di Jacopo Minio ascoltandola e anche un po' decifrandola, perché c'è sempre qualcosa da capire in più anche nei testi delle canzoni, che assolutamente sono direi molto molto profondi. Quindi ci dirai anche come sono nati questi pezzi. Allora direi di cominciare subito con la presentazione di un primo pezzo del tuo disco, Jacopo, e quindi abbiamo scelto la traccia numero 3, che si intitola proprio come il tuo disco, e si intitola Speranza. L'ascoltiamo, Speranza, sì, poi torniamo a commentarla. Grazie. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Certe pieghe dell'anima non conviene stirare, con il tempo si stendono ad asciugare, quando il sole esce piano vorresti amare. Arrivata a casa mia, contro voglia e per caso, ma era un anno che mi affidavo ritmicamente, con i respiri, sentire il mondo in un istante. Avrei pensato mai che giù dentro gli occhi tuoi, come un film davanti ai miei, riposasse la mia musica. Le chitarre non suonate, la tua gioia nella voce, le canzoni sussurrate, io ritrovo. Thank you. sereno sarai nel cielo come un gabbiano. Marmo bianco sembra neve, trova un varco verso il mare, io ritorno a respirare l'aria buona. Occasione di ascoltare senza limiti nel cuore, senza pause della mente, un regalo la tua lettera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato il primo pezzo di Jacopo Minio, il suo ultimo lavoro, il lavoro d'esordio, si intitola Speranza. Abbiamo ascoltato proprio la traccia che dà il nome all'intero lavoro, Speranza, con un messaggio, come dire, davvero introspettivo questo. Ci si guarda dentro e fa subito colpo anche quella che è la prima riga che tu canti, Jacopo. Certe pieghe dell'anima non conviene stirare. Davvero offre un quadro perfetto di come dovrebbe essere effettivamente sgualcita nella maniera positiva la propria anima, nel senso che bisogna usarla. Sì, questo è un concetto sicuramente introspettivo. Mi fa piacere che una grande cantante italiana molto nota mi abbia a un anno di distanza citato inconsapevolmente, probabilmente, che è Giorgia nel suo ultimo disco, che dice proprio la stessa frase, certe pieghe nell'anima. Insomma, è un concetto, insomma, che magari non è immediatamente fruibile o raggiungibile, però significa anche che non c'è bisogno di incaponirsi, come si dice a Roma, su certe circostanze e necessariamente comprenderle con la ragione razionalmente. E le pieghe dell'anima che chiave di lettura ti hanno dato per arrangiare musicalmente il pezzo? Ma ci sono, diciamo, l'arrangiamento è frutto anche di una collaborazione importante con un musicista importante italiano che si chiama Pericle Odierna, che probabilmente ci starà anche sentendo. Chiaramente le idee di arrangiamento, io avevo delle idee di suono piuttosto precise che Pericle mi ha aiutato a focalizzare, idee di suono che vengono da mie frequentazioni soprattutto di musica anglosassone o oltreoceano. I miei riferimenti sono riferimenti di classic rock, a me piace molto Dylan, mi piace Springsteen e da ultimo, da un po' di anni, mi piace molto un cantautore inglese, gallese di adozione, che si chiama David Gray, che è riuscito caparbiamente a portare avanti la sua musica quando, dopo aver fatto svariati dischi, non era riuscito a sfondare, quantomeno avere i soldi per poi continuare. Fece un disco che si chiama White Ladder, che poi completamente registrato a casa, per cui autoproduzione totale, che poi ha venduto un'infinità di copie, milioni di copie tra Irlanda, Inghilterra e tutto il mondo. E questo gli ha dato la possibilità di continuare a fare questo lavoro, per cui la ricerca sonora è un po', va un po' in quella direzione. Insomma, mi sono un po' sforzato con le pieghe dell'anima e anche con le pieghe della sapienza del maestro Odierna a portare avanti questo discorso. Certo, insomma. Tu dicevi di Pericle Odierna e alla fine del tuo disco, nel libricino che c'è a corredo del tuo lavoro, c'è scritto: grazie a Pericle Odierna, senza il tuo aiuto non ci sarebbe stata puntini puntini puntini speranza. Sì, e quindi il riassume il concetto. Ci sono altri crediti. E uno dei crediti importanti è quello che riguarda proprio la qui presente Giorgia Lepore, che chiaramente mi ha dato tanta forza per portare avanti questo percorso musicale che si era un attimo fermato nelle cose della vita. Invece mi ha, diciamo, aiutato a prendere le chitarre dalla soffitta, tirarle giù e continuare a scrivere pezzi. E poi c'è un riferimento a mio figlio Niccolò, che magari in un secondo momento ascolterà questa trasmissione. Mi fa piacere citarlo perché si risentirà. Certo, anche i nostri ascoltatori potranno risentire questa trasmissione che stiamo anche registrando e siamo in diretta, lo ricordiamo, oggi è il 15 novembre 2011, sono le 21:19 minuti prima in questo istante, però questa registrazione verrà inserita anche nel podcast del nostro sito internet, che è bluradioveneto.it. Chitarre nella soffitta, hai detto, ma secondo me hanno sempre spolverate, le chitarre erano pronte per essere usate. Eh sì, hai ragione, le chitarre sono nel cuore, diciamo, come le canzoni e come la voglia di scriverle, perché poi c'è tutto, è tutto lì, quando riesci a tradurre, diciamo, in canzoni o in testi scritti delle pulsioni forti, delle emozioni forti, vuol dire che in qualche modo, in qualche maniera, poi il pubblico lo deve dire, però insomma si è un po' artisti, no? Che è una parola un po' abusata, però non è facile poter dire in radio o poter dire in generale di essere artisti, perché ci sono tanti non artisti che dicono di esserlo, no? Certo. Per cui, diciamo, noi siamo... Ma questa è un'altra storia, no? Questa è un'altra storia. Vabbè. Poi noi qua siamo, diciamo, per aprire le porte della speranza, sì, e non quelle della polemica, no? Giusto, giusto. Apriamo anche il CD con le canzoni di Jacopo Minio. Jacopo Minio è venuto a trovarci, oltre che con Giorgia Lepore, anche con la sua chitarra appena citata, quindi fresca ancora da soffitta, per presentarci il suo primo brano live. Cosa succede adesso? Allora, a corredo di questa informazione ti dirò che io imbraccio una chitarra di cui non dirò la marca, ma che è stata firmata in copia proprio da David Gray. L'ho trovato in un'asta e sono veramente felice, per cui, diciamo, se non la mia sapienza, ci sarà la sua a supportarmi. La canzone che apre il CD si chiama Dal Buio, è un pezzo che scrissi tanto tempo fa con un mio amico di Ventura, Marcello Spinetti. Si chiama Dal Buio e ve la propongo live. Pazzo lo sono anch'io, semplice gioco di abilità. Liberi e libero sono soltanto quello che non ti va. Io scoprirò se credo nella gente che crede con me. Scoprirò che vedo mille cose che non vedi tu. Pazzo lo sono anch'io, e se volassi come te, per leggere il destino nel buio, potrei leggerlo se c'è. E dimmi come si fa, insegnami le cose che non vedi. Dove va chi parte già? Cosa c'è nel rumore che fa? Se ricordi il mio viso, vai, sogna come vuoi. Resta libero vicino a me, io saprò che sogno sei. Sognerò che stai nel sogno insieme a me. Sognerò che non c'è più bisogno di me. Pazzo lo sono anch'io, io non lo so che colore è il tuo blu, ma tu che senti i colori che vedo, dimmi poi di che colore è il blu. se ricordi il mio viso, vai, sogna come vuoi. Resta libero vicino a me, io saprò che sogno sei, sognerò che stai nel sogno insieme a me. Sognerò che non c'è più bisogno di me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Jacopo Minio con questa Dal buio, tratta dal suo lavoro d'esordio che si intitola Speranza. Noi siamo fortunati, abbiamo Jacopo Minio qui con noi nei nostri studi a Blu Radio Veneto, nella redazione di Padova, per parlare e approfondire riguardo a questo suo lavoro. Allora, Dal buio inizia con la parola pazzo. Inizia con la parola pazzo, che è una parola che, diciamo, fa impazzire. Nel senso, la musica, come tante forme artistiche, è uno spartiacque, no? Uno spartiacque tra una gioia incontenibile e un possibile dolore inenarrabile. E in questo confine ci può entrare anche la pazzia, o quantomeno il fatto di perdersi in qualche cosa, no? E l'importante, insomma, è cercare di familiarizzare con quello in cui uno ha paura a perdersi, perché poi non ci si perde più. Per cui, se si avvicinano dei concetti che sono molto ingombranti, come quello di pazzia, come quello, diciamo, cose anche, diciamo, non radiofoniche, ma di morte, per dire, se si avvicinano questi concetti, probabilmente ci si riesce a godere la vita e a assaporarla molto meglio, per cui tutti gli aspetti della vita, per cui ci sono aspetti, come sappiamo tutti, meravigliosi e dolorosi. Per cui è questo un po' il senso. Dal buio è una, diciamo, parafrasi di quella che può essere un discorso di cecità, che può essere una cecità reale, per cui una incapacità a vedere proprio le cose e i colori, come un'incapacità a vedere le cose e i colori della vita in senso emotivo, no? Per cui, insomma, se può dar da riflettere, mi fa piacere. Com'è datata Dal buio dal punto di vista temporale? Quando l'hai scritta? Ah, questa è una canzone vecchia. È una canzone vecchia perché degli anni 90, per cui chiaramente, ecco, uno che fa un disco a 40 anni ci mette dentro varia umanità, varie canzoni, no? Ci sono svariate canzoni nuove come delle canzoni riprese vecchie. L'origine di questa canzone, questa era una canzone che io avevo scritto in inglese, perché ai tempi del folk studio già citato di Giancarlo Cesaroni, che io ho potuto frequentare nella sua ultima, storia, parabola, fase. Ultima parabola, mi hai dato la parola, ultima parabola e ultima fase, è stata una palestra molto importante, c'era quel folk studio giovani che molti ricorderanno, in cui uno poteva andare lì il pomeriggio e esibirsi, cercando di fare sempre e soprattutto cose originali. Io a quel tempo avevo la passione della musica oltreoceano, come ho adesso, per cui scrivo canzoni solamente in inglese. Per fortuna ho cambiato, nel senso che poi, diciamo, esprimersi nella propria lingua è molto meglio, però questa era una canzone che era una canzone in inglese, e il testo di questa canzone Dal buio invece lo scrisse Marcello Spinetti, questo mio amico, per cui ho adattato una mia canzone in inglese, la musica della canzone in inglese e la melodia della canzone in inglese al testo in italiano di questo mio amico conosciuto in un posto in Umbria. Poi dicevano del Folk Studio che nel pomeriggio, lasciando lo spazio ai giovani, c'era comunque qualche artista già rinomato e conosciuto che passava di là e si fermava. Beh, diciamo, questo accadeva. Io tristemente, a me non mi è accaduto, perché diciamo si favoleggia, e io insomma sono legato tanto a Dylan, per cui si favoleggia che Dylan negli anni 60 andò al Folk Studio e si esibì al Folk Studio, per cui c'erano queste registrazioni che pare siano state fatte da qualcuno, e che qualcuno probabilmente ha, io non ho mai sentito. Nel momento in cui mi sono esibito io, tristemente non è venuto nessuno, però c'erano dei ragazzi che comunque avevano dentro qualche cosa di importante. Non li ho visti famosi, insomma, però insomma il Folk Studio ha lanciato gente tipo De Gregori, gente tipo Venditti, gente tipo, per dire, Stefano Rossi. Sì, Stefano Rossi. Molti dimenticano anche Giorgio Locascio, che era un grandissimo musicista. Assolutamente, per cui insomma persone di prima grandezza e di prima entità, alcuni hanno avuto più fortuna per loro merito e anche merito di altri che l'hanno saputi allevare bene, altri invece minor fortuna, però sono quei posti come quello in cui sto adesso che servono alla musica, no? Perché se voi non faceste questo tipo di trasmissioni, probabilmente l'attenzione delle persone che vanno di fretta non si poserebbe su cose originali, su persone giovani o meno giovani che fanno questo lavoro. Diciamo che in questo caso cerchiamo di fare un'ottima alternativa alla televisione, perché esatto, per offrire un ascolto, diciamo, diverso, mentre si fanno anche le faccende a casa, avendo in sottofondo una radio che propone della musica nuova e soprattutto in versione costruttiva, da certo, gente che sa fare musica, insomma. Sì, poi diciamo la radio ha di bello quello che ha di bello il libro, no? Che devi immaginare, devi immaginare, perché io non sono neanche troppo d'accordo con quelle radio che demandano il video, nel senso della trasmissione. È un'alternativa, però insomma il fascino della radio è che tu lo senti ma non vedi e immagini. Come un bel libro ti immagini chiaramente le scene, le avventure che stai leggendo. Perché diceva Finardi, la radio è libera veramente. Qui questa è una radio libera veramente in quel senso là, libera di esprimere. Musicisti come te suonano. Salutiamo Eugenio Finardi. Grande sì. Eugenio. Salutiamo Eugenio Finardi, che vi dico una chicca. Dimmi. Sì. È mio parente, Eugenio. Ah. Eugenio, se ci sente, ciao Eugenio. Ah, benissimo. Bene. È il cugino di mio papà. Allora viva doppiamente la radio. Benissimo. No, allora ricordo comunque a Jacopo e ai nostri ascoltatori che prossimamente, oltre al podcast che contiene la registrazione della piacevole serata con Jacopo, ci saranno anche delle foto pubblicate su Facebook per l'occasione. Quindi spazio all'immaginazione questa sera, ma poi scopriremo le immagini. Benissimo. Che sono opportunamente prese da Maurizio. No, foto fatte da Alberto. Da Alberto Frisco, che salutiamo, che è anche il nostro direttore artistico. Io che, a questo proposito, grazie a lui. Ecco, sì. Infatti ringrazio Alberto Frisco perché mi ha dato comunque questa l'opportunità, insomma, di venirvi a salutare, di salutare i vostri ascoltatori e di beneficiare, insomma, di questa trasmissione. Per cui Albertone, grazie. Benissimo. Bene. Allora diamo spazio a un altro pezzo dal disco di Jacopo Minio, ricordiamo si intitola Speranza, e andiamo con la traccia numero 4 che si intitola Dove sogni di andare, e poi chi canta? Ah, che canta? Lepore. Canta anche Giorgia Lepore, sì, quindi sì, ecco, poi va citata. Sì, sì, ecco la scusa che sono mi cita per danni. I video mi nascondono Giorgia. Allora, vabbè, allora poi parleremo anche con Giorgia a proposito di questa canzone. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sogni di andare, ti porterò lassù, dove il silenzio non sapevi volare, ma è facile, io e te. cielo blu, nel cielo blu. Ed il dolore svanisce, guardiamo giù dal cielo blu. Aspettiamo che tu riuscissi a guarire quassù. Vedi, tutto è possibile. Ti basta respirare, non sei più fragile. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La canzone si intitola Dove sogni di andare, a cantarla Jacopo Minio assieme a Giorgia Lepore, e noi di Blu Radio Veneto siamo davvero fortunati perché questa sera ce li abbiamo qua tutti e due, quindi Jacopo Minio, Giorgia Lepore, grazie ancora per essere arrivati qui da noi, avete fatto tanta strada. Speriamo di potervi ripagare con queste emozioni radio. Ci state già ripagando. No, grazie a voi. Ecco qua. Allora, grande emozione da questa canzone e da questo duetto così importante e così sentito. Proprio ci si accorge ascoltandolo, naturalmente, in dovizioso silenzio, che c'è un qualcosa di più della canzone, che c'è l'amore, si sente che siete voi. Sì, questo diciamo non è un caso, ma è un percorso, insomma, di vita e di musica molto molto intenso, insomma, con le difficoltà tipiche delle cose intense e volute, però insomma, se poi si riesce a concretizzare, diciamo, le difficoltà, a dargli una faccia e un ascolto di un buon livello, vuol dire che si è fatto un buon lavoro sia artistico che umano, di relazione, insomma, per cui... Sentiamo anche Giorgia, quando Jacopo ti ha proposto di cantare assieme a lui questa canzone, come ti sei comportata? Cioè, hai detto subito di sì oppure ma vediamo? Beh, le mille sfumature date da una donna di fronte a una proposta. Beh, sono stata molto felice subito e diciamo che non me l'aspettavo. E poi ho detto quasi subito di sì, perché sì, diciamo, in tante occasioni ho mille sfumature, però abbastanza semplice, molte altre, felice rido, triste piango, sì è sì, no è no. Quindi qua in questa occasione sono stata proprio molto felice e sorpresa, per cui sì, subito. Perfetto. Secondo me c'è, non so se sei d'accordo Jacopo, c'è una piccola sfumatura folk all'inizio del pezzo, poi varia, si allarga, però io l'ho sentita così. Sì, beh, diciamo il folk... Il folk in senso più ampio del termine. Sì, sì. Beh, diciamo, io sono un soldato del popolare, nel senso che comunque a me quello che è popular music, nel senso nel migliore del termine, cioè proprio la musica che viene... La canzone che viene dalle emozioni delle persone, no? Quello che è la base della musica popolare, della musica folk americana, del blues, ma anche della musica popolare, certo, italiana. Pensare alla canzone napoletana, sono delle cose che veramente ti fanno muovere tutto dentro, no? E per cui sicuramente è vero questo, è vero anche che la canzone ha anche dei contenuti di popolarità, ovvero sia di fruibilità, penso a vari livelli, per cui può essere anche pop. Sì, senza dici, parli di melodia allora in questo caso? Parlo di melodia, ma anche insomma di tipo di arrangiamento, nel senso che è quella che si potrebbe chiamare forse l'ex canzonetta di una volta, no? Che... Se, diciamo, impreziosita quanto si riesce e quanto riesce a fare uno che questo lavoro lo sa fare, può essere una bella cosa. Insomma, non è detto che il pop sia una cosa brutta, no? No, assolutamente. Pensare, insomma, Elton John, voglio dire, ha fatto delle cose orrende, ma ha fatto delle cose meravigliose, no? Per cui, tante meravigliose, sì, ragione Giorgio. La rielaborazione di Candle in the Wind, no. Però, insomma, beh, quello dai 25 milioni di copie è un'altra cosa. Bravo, lasciamo perdere. Comunque, insomma, onore al pop quando è sentito e quando viene veramente dal cuore, quando non è solo arte, diciamo, di arrangiamento, ma è composizione. A proposito di arrangiamento, e poi concludo e lascio la parola a Flavio, il discorso della chitarra effettata dà proprio là alla esecuzione femminile, proprio, sì, l'introduzione, sì, della voce, diciamo. Sì, diciamo, questo è frutto di un alacre studio del maestro Odierna, che ha chiaramente favorito questi intrecci, nel senso che abbiamo cercato di lavorare a stretto contatto per alcune idee, chiaramente erano mie idee originali, altre idee l'ha messe lui, per cui è un lavoro comunque di coproduzione e co-composizione in alcuni sensi, insomma. Benissimo, ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando in questa serata con Jacopo Minio, ci sta presentando il suo nuovo lavoro che si intitola Speranza. Sono 8 tracce davvero gustose da ascoltare e da riascoltare, però Jacopo Minio ci ricava anche un qualcosa di inedito, un qualcosa di nuovo che ascoltiamo noi, si può dire, in anteprima. Sì, in anteprima mondiale su Blu Radio Veneto. Sì, per chi ci ascolta in streaming audio, che può ascoltarsi è assolutamente dal polo nord al polo sud, passando per l'acquatore. Sì. Qui, se decodificano l'italiano, è meraviglioso. Sì. Vi propongo un pezzo, l'ultimo pezzo che ho scritto abbastanza recentemente. Noi siamo reduci, da un anno di lavori a casa, per cui con martelli pneumatici e chi più ne ha più ne metta. Questa canzone si chiama Emorragia e parla di quando avevo qualche chilo in più di adesso e quando stavo proprio assediato dai martelli pneumatici. Emorragia. Tre di notte, cosa sto a fare? Le braccia rotte, devo riposare. Lo zero assoluto, cervello affogato, le gambe pesanti, ventre dilatato. Non facevo niente di sano, giocavo da fermo con plastica in mano. Corre sul video un altro disperato che mette a tacere un cuore malato. Si chiama solo emorragia, pozze di sangue scivolo via. Si mischia al piscio sul pavimento, rimango a terra spezzato dentro. Partire di slancio, ti voglio portare, prendiamo la moto, ci piace volare. Non penso più a niente, ti voglio vicina, svegliamoci insieme, è quasi mattina. In un attimo cado per terra, non bastano i soldi in tempo di guerra. Due volte l'andata e due volte il ritorno, bastasse lo sputo, secondo contorno. Ferite aperte, emorragia, 50 euro volano via. Le martellate degli operai, olio bollente sopra di noi. Emorragia è casa mia, un vero caos, un'isteria. Io devo uscire e andare via, un'agonia è malattia, è una follia. Emorragia, na na na na, na na na na. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Jacopo Minio ci ha fatto ascoltare un brano, diciamo, inedito ancora, si intitola Emorragia e parla di una situazione contingente accaduta qualche tempo fa, a quanto abbiamo capito prima, quindi pensavo tanto a un trasloco, a una costruzione di un appartamento nuovo in questo caso. Assolutamente verissimo, ci siamo allontanati di poco dalla città, dalla megalopoli Roma, e siamo approdati in un ridente paese, nella campagna di un ridente paese a nord di Roma. E chiaramente questa è stata un'operazione che ha richiesto dei lavori di straordinaria manutenzione che ci hanno tenuto impegnati per un anno, diciamo, con una certa fatica, però anche voi protagonisti del mattone in questo caso. Protagonisti del mattone, il mattone mi è molto caro, mi è molto vicino, anche perché insomma per sbarcare il lunario faccio una cosa, diciamo, molto vicina al mattone, o comunque che ha a che fare col mattone, anzi saluto gli amici del mattone che forse mi staranno ascoltando. E comunque insomma abbiamo ristrutturato a casa vivendoci dentro, e questa è un'esperienza epocale, diciamo un'epopea praticamente, che però ti fa sentire l'appartamento, la casa ancora più tua, ancora sì. Più tua, certo. E Giorgia oltre... ci può dire qualcosa a proposito. Sentiamo Giorgia. No vabbè, è stata un'esperienza abbastanza pesante, anche se poi alla fine anche bella, è vero, senti la casa molto più tua, vedi che le cose prendono forma, le stanze cominci a vederle come le avevi pensate, le cose cominciano a crescere sotto i tuoi occhi, però ci vuole un po' di pazienza, molta pazienza, perché insomma noi abbiamo passato svariati mesi in questa condizione, peraltro con due lavori molto differenti che ci portavano e ci portano anche a stare molto fuori casa, o comunque ad avere una vita piuttosto frenetica, diciamo che il mix era un po' esplosivo, per cui ci sono stati momenti, ecco, molto duri, e poi insomma la vita si mischia sempre con queste cose, certo, contingenti. E questa emorragia che diceva questo Jacopo, sbocco di sangue, sì, dell'emorragia, sì, sì, è praticamente un po' la trasposizione in musica di questa difficoltà, insomma. Ma insomma il sangue è una cosa che, insomma, come il fuoco, no? Il fuoco può bruciare, però insomma può anche scaldare, no? E appunto la chiave di lettura di questo pezzo, secondo me, musicalmente, anche Flavio sarà d'accordo, è il blues. All'inizio era un pezzo blues, poi si apriva in una melodia e finiva in una chiave melodica, sì, ma era un pezzo blues. Beh, insomma, sì. C'era questa chitarra un po' soffocata, diciamo, sì, all'inizio. Sofferta. Sicuramente sofferta. Beh, insomma, il blues è il papà di tutta la musica popolare, è quello che sostanzialmente... sostanzialmente in musica è il tentativo riuscito meravigliosamente in alcune circostanze di dire le cose in modo semplice. Le cose dette in modo semplice, questo lo fanno solamente i grandissimi artisti, quelli che vanno ad asciugare, a togliere l'artista puro, è quello che riesce a sfrondare, che poi arriva a una cosa che parla della vita alle persone, e le persone la riconoscono perché è anche la loro di vita. E fra i tanti tuoi punti di riferimento abbiamo citato nella biografia Nick Drake, grande punto di riferimento. Sì, grande punto di riferimento. Si collega anche a David Gray, chiaramente. Assolutamente, un grande punto di riferimento, è un personaggio della musica non dimenticato. Io ricordo una delle canzoni, insomma, più belle, Cello's Song, una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito in generale, insomma, della musica popolare, della musica pop mondiale. Un personaggio che nel poco tempo in cui ha potuto non tanto calcare i palcoscenici, perché non aveva nessun piacere a suonare dal vivo, però nel tempo che ha potuto produrre dischi ha fatto delle cose, nel poco tempo ha fatto delle cose veramente meravigliose che ancora si ascoltano, no? Per cui ci può essere un parallelo per alcuni versi, parlavamo fuori onda con Jeff Buckley, però ecco, Jeff Buckley, anche se veramente un talento enorme, poi ha potuto, diciamo, sostanzialmente fissare su disco ben poche cose, sostanzialmente un disco, poi ce n'è stato uno postumo. Sì, esatto, ma dobbiamo sottolineare che Nick Drake non voleva neppure produrre o incidere dischi, è stato Joe Boyen da dargli spinta favolo. E quello, parliamo del cosiddetto curatore, di quello che dà una mano. È proprio, ritorniamo al punto di partenza, ritorniamo a quelle persone, quegli incubatori, che è una parola brutta, ma insomma, vabbè, quelle persone che aiutavano gli artisti a non tanto a focalizzare necessariamente le idee artistiche, ma quanto a fare il passaggio tra la resa artistica da quello che l'artista ha dentro al fuori, cioè al portarla alla gente, per cui portarla, e per cui il confronto anche con la dimensione commerciale, no? È una cosa che per tanti artisti è impossibile e non ci arrivano mai. Per cui l'artista comprende anche, diciamo, il fatto di veicolare la propria arte, e se c'hai una persona che lo sa fare, meglio. Anche certo, perché mi sembra di capire che un artista, se deve usare un incubatore, in questo caso diciamo un produttore o un arrangiatore, deve anche pagarlo poi. Beh, sì, molte volte. questo è vero, diciamo, cioè, le esperienze possono essere piccole, medio, grandi, insomma, ma nelle piccole esperienze come la mia, comunque, per dirvene una, nel momento in cui devo suonare in un posto, diciamo, di una certa capienza, per cui un bel palco, come mi è successo fortunatamente, i musicisti, diciamo, non è che sono tuoi amici, no? Per cui puoi avere una band di riferimento, ma questi musicisti, parliamo proprio di cose banali, no? Ma i musicisti, visto che fanno i musicisti di professione, devono essere pagati, ergo 50 euro minimo a uscita, quelli che prendono poco, no? Poi quelli che prendono di più... Per cui sostanzialmente il cantautore di turno, nel caso io, li devo tirar fuori di tasca mia, no? Se non ho il Joe Boyd della situazione, certo. che mi foraggia, no? Per cui diciamo Joe Boyd della situazione o altri, insomma, sentite questa trasmissione e mettetevi una bella mano sulla coscienza. Qua c'è qualcosa da fare, insomma. C'è un appello di Jacopo Minio nei confronti appunti dei Session Man, come si chiamano. Assolutamente, sì. Anche quelli che via streaming ci sentono dal Polo Nord, sì. Va benissimo. Per cui, insomma, poi... Insomma. Vabbè, abbiamo capito anche questo messaggio. Allora ricordiamo i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, che stiamo piacevolmente conversando con Jacopo Minio, con Giorgia Lepore, con la chitarra di Jacopo Minio, per la presentazione di questo Speranza, così si intitola questo CD di cui stiamo ascoltando le tracce, e per ascoltarne un'altra, questa volta un appuntamento con... Tigri e Perle, che torneremo a commentare più tardi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Tigre, non puoi lasciare il posto ed il timone. Quando la lotta si avvicina, perdere l'oro, l'armi, il fuoco dei cannoni, cancelli l'odio ed il furore. Si bagna di sudore, la perla che cerchi nascosta in fondo al mare, tempesta di fuoco nelle vene, nel tuo dolce riposo la tua rabbia scorre via, una morbida mano ti tiene compagnia, non ricordi più il sangue. Compagni andati via, il ruggito si perde nel mare. E perdi anche l'onore, un profumo ti prende come di mille fiori nel tuo anello, il veleno scompare. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un'altra traccia dal CD di Jacopo Minio, che abbiamo qui con noi in questa serata, si intitola Tigri e Perle. Allora chiedo subito a Jacopo il connubio delle due cose, come è venuto fuori. Allora, vi ricordate la perla di Labuan? Oh, certo, eccola, Marianna. Eccola. Marianna, Marianna, io praticamente c'è stato uno psicodramma quando avevo 6 anni, perché la Rai diede Sandokan, e quando Marianna stava per morire con la mano sul cuore, un'ampolla di sangue e perdeva sangue a volontà, Sandokan, assolutamente disturbato da questo evento, saltò la televisore, il televisore, per cui saltò la trasmissione. E io mi misi a piangere in un pianto dirotto, e i miei genitori veramente non sapevano più cosa fare, un'interruzione di comunicazione, non so quello che è successo. Al che, diciamo, mi sono rifatto, perché poi ho comprato tutto il Sandokan in DVD, per cui mio figlio è bombardato di Sandokan, anche se vorrebbe vedere altre cose probabilmente. Questo era un modo per rendere omaggio a Emilio Salgari, che è un grandissimo scrittore italiano, molte volte dimenticato, chiamato molto, molto più spesso Salgari invece di Salgari, come si chiamava. Comunque, a parte questo, insomma, personaggio che si racconta, insomma, scriveva i suoi romanzi a casa e parlava di posti meravigliosi che si dice non abbia mai frequentato e mai visto. E cogliamo l'occasione anche per ricordare gli Oliver Onions, in questo caso, Guido e Maurizio De Angelis, sì, che diciamo poi adesso fanno altre cose a un altissimo livello, sì. Però diciamo il lato B di Sandokan, che si chiamava Sweet Lady Blue, eccola, io se la sento mi metto a piangere adesso, ecco. Nel senso che era una canzone meravigliosa, uno delle hit, insomma, più belle del periodo. Decisamente, beh, loro erano bravi perché hanno diversificato il loro bagaglio sonoro, Guido e Maurizio De Angelis, non soltanto certe cose che tutti conoscono, anche cose molto più particolari. Certo, per cui anche l'uso di strumenti propri, insomma, Sandokan era orchestrato in un modo non solo accattivante, certo. Con una sapienza e con un uso, insomma, certosino di strumentazioni e tecniche di arrangiamento e di composizione, che comunque adesso utilizzano per fare delle brutture, insomma, delle cose molto più brutte. Comunque, una cosa che ricordo è che all'interno del nostro archivio c'è proprio il 45 giri di Sandokan. Beh, meraviglioso. Quindi quello ce l'ho anche io a casa. Fantastico. Allora, stiamo parlando con Jacopo Minio per sapere qualcosa di più di Jacopo Minio, anche perché penso che un'ora e mezza non basti per approfondire l'argomento, ce ne vorrebbe di più, però c'è anche un sito internet che può accontentare i nostri ascoltatori. Assolutamente, per cui il www.canonico Jacopo Minio, Jacopo si scrive con la J, per cui jacopominio.com, lì troverete, insomma, un po' di notizie su di me, in streaming qualche brano che eventualmente, se vi piace, potrete anche acquistare sui vari motori di ricerca e vendita di musica, tipo iTunes, si può dire. E anche qualche esibizione video di esibizione live, perché sì, chiaramente, insomma, il suonare live poi è quello che mi fa vibrare veramente di più, anche perché ci sono molti filmati che ti riguardano all'interno di YouTube, proprio nella proposizione dal vivo di tutte quelle che sono le canzoni che stiamo ascoltando adesso, sia in versione acustica sia in versione sì, disco. Sì, mi fa piacere che lo ricordi, perché insomma sicuramente sono degli strumenti che all'epoca, gli anni 60 e 70, non si avevano, per cui insomma non disprezziamo la tecnologia, che ci dà anche la possibilità di veicolare, insomma, immagini, emozioni e musica in giro per il mondo. Mi vedrete con la barba, adesso non ce l'ho, ma insomma sono sempre con la barba e con il cappello anche. Con la barba, esatto, e con il cappello. Quello l'ho portato, perché sennò sì, poi non mi riconoscevate voi. Poi facciamo delle foto anche col cappello. Benissimo. Il cappello fa molto artista, perché insomma lo porto ogni tanto. È il contenitore delle idee dell'artista in questo caso. Sì, poi insomma gli artisti che non hanno folte capigliature, e anche per la sinusite. Questo è vero. A proposito di questo pezzo, il finale era un pezzo rock. Il rock viene fuori, perché anche tu hai il rock nel sangue. Beh, nonostante sia un cantautore. Beh, assolutamente, diciamo, il mio papà rock è Bruce Springsteen, esatto. io diciamo i concerti di Springsteen, diciamo, sono ineguagliabili quanto a carica e quanto a forza proprio dirompente e distruttiva. In senso e anche buono per la durata anche per la durata, sì. Insomma, io sì, quando sono li ho visti magari non proprio al massimo della gioia, in fase depressiva, alla fine del concerto dicevo basta Springsteen. Cioè, anche io, che voglio dire, non visti tantissimi e sono veramente un fan del boss, anche se questa parola è orrenda, però boss, insomma, lo identifica come il 1985 San Siro, lui con la canotta che si esibiva, insomma, e non ci andai perché non ci andai. Questa è una cosa che una pecca, insomma, ti rimarrà sempre, mi rimarrà sempre perché è stato a detta del boss uno dei concerti più belli della sua carriera, per cui insomma, e allora diciamo, se l'ha detto grave, lui, molto grave. Perfetto, allora questi che hai interpretato sono proprio sentimenti comuni. Sono sentimenti comuni, diciamo, il fatto di parlare, stiamo parlando della canzone che andrò successivamente a proporre, sentimenti comuni, il fatto di parlare di sentimenti comuni come di parlare di musica popolare, no? Potrebbe essere un termine dispregiativo per il sentimento o per la musica, in realtà bisogna imparare con pazienza ad ascoltare anche i sentimenti comuni, ovvero sia i sentimenti del cuore di ogni persona. Insomma, ognuno di noi ha dei sentimenti che potrebbero sembrare banali, ma invece sono proprio la sostanza della vita, no? E l'arte serve proprio, insomma, a dargli un cappotto buono e, diciamo, un vestito appropriato per essere capiti. Ecco. Bene, allora sentimenti ci ascoltiamo comuni, questi sentimenti comuni che so che canterai assieme a Giorgia. Canto a Giorgia, sì. È una canzone che forse ricorderà a qualcuno le atmosfere di qualche tempo andato, vedi Folk Studio e company. Benissimo, ce l'ascoltiamo. Sentimenti comuni, Jacopo Minio, Giorgia Lepore, qui a Blu Radio Veneto. Se devi andare via, trova il tempo per un saluto. Non credo che tu sia tanto amara da non spiegare. Se devi andare via, di le cose teneramente. Io chiedo che tu sia trasparente, senza regali. Non mi sbagliavo. Se vuoi andare via, scegli le frasi, torna a casa mia nel buio. Devi andare via, basta poco per liberarti. Non stringo le mie mani tra le tue, non ti trattengo. Finito il dimenticarti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato questa Sentimenti Comuni, davvero sentita questa canzone, poi chi avrà modo di ascoltare anche il disco scoprirà che è una delle tracce più belle, senza togliere nulla alle altre otto tracce contenute in questo CD di Jacopo Minio che si intitola Speranza. Più emozionante, perché c'è emozione quando si canta questo pezzo in due. Il duetto dà sempre, sempre emozione, voce femminile, voce maschile, è proprio l'emblema stessa dell'emozione, secondo me. Sì, sì. Anche se questo è sicuramente vero, anche se ci sono dei duetti, ti devo dire la verità, sì, che a me mi massacrano proprio, nel senso che invece al contrario mi devastano l'anima in senso negativo, nel senso che sono veramente didascalici, no? Però invece... quando si riesce a trovare un bel connubio, è un bel connubio di cuori, no? Poi anche di voci. Tu parlavi del folk studio, dovremmo citare anche De Angelis, che è uno dei cardini del folk studio. Sì, diciamo uno di quei personaggi che si ricorda, se lo ricordano meno persone, peccato. Sostanzialmente un gran peccato. Lo stesso Stefano Rosso, insomma, ci sono dei personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana. Che sono in qualche modo, per motivi anche commerciali, un po' abbandonati o nel dimenticatoio. Bisogna ricordarli perché sono stati anche i personaggi che hanno dato la linfa ai personaggi che poi sono usciti e hanno fatto invece successo, perché se i vari De Gregori e compagni non avessero avuto dei compagni di ventura di questo calibro, probabilmente tante idee non l'avrebbero raffinate, no? Per cui insomma hai fatto bene a ricordarlo. Decisamente così. Allora stiamo parlando con Jacopo Minio, questo è un nuovo lavoro targato 2010 che stai presentando in giro anche in versione live, ma vogliamo ricordare anche quelle che sono le tue esperienze precedenti, sempre cantautorali. Era il lontano 1999, sembrava quasi un'odissea nello spazio. Però me lo devi ricordare tu, dimmelo. Stavo parlando di quel Anche il cuore ha una voce. Ah vabbè, hai detto, insomma, hai citato una cosa, tu conosci la mia biografia meglio di me. Sì. E questo ti fa onore. Io sono legato per la musica italiana a degli artisti degli anni 60 e 70, soprattutto degli anni 70, o quantomeno artisti usciti negli anni 60, ma che poi hanno fatto delle cose pregevoli negli anni 70. Io sono nato nel 1970, per cui io ricordo, insomma, un lavoro o una serie di lavori di un grandissimo maestro della canzone italiana, che è Gino Paoli, un disco in particolare che si chiamava I semafori rossi non sono Dio, che è paradossalmente un lavoro di canzoni non di Gino Paoli nel senso pieno del termine, perché sono canzoni di Juan Manuel Serrà, che Paoli però ha fatto sue in una non solo traduzione, ma insomma in un adattamento alla lingua italiana meraviglioso. E diciamo in quegli anni ci sono altri dischi come Amare per vivere, per esempio, che mi hanno, insomma, molto molto colpito, per cui Anche il cuore una voce è un modo, è una canzone che scrissi anni fa e che peraltro ho avuto modo anche di dare un CD di questa canzone proprio a Gino Paoli una volta che l'ho incontrato, che diciamo l'avrà probabilmente buttato il secondo dopo, ma no. Insomma, no, ma no. Non no, voglio no, pensare no. Questo. Assolutamente no, però diciamo era un modo per rendergli omaggio, no? Perché comunque ci sono delle cose, per esempio questo disco, I semafori rossi non sono Dio, che quando io lo sento, e lo sentivo da bambino, perché bisogna ricordare che è mio padre un po' artefice della mia cultura musicale, della mia sensibilità musicale da piccolo, quando io lo sento non è che lo sento con le orecchie, risuono. Cioè, è come se il giradischi girasse proprio dentro di me, per cui diciamo l'emozione non è filtrata in alcun modo dalla testa, è proprio una cosa intrinseca, ecco. Questo è il bello dell'emozione della musica. Allora, vorremmo sentire anche, abbiamo sentito gli artisti che piacciono a Jacopo Minio, abbiamo citato dei nomi assolutamente importanti, continuiamo a farlo, ma sentiamo anche Giorgia Lepore, che gusti musicali ha e soprattutto quali sono le sue artiste o artisti preferiti che nel tempo ti hanno forgiato anche musicalmente parlando? Beh, io ho fatto un percorso molto diverso. Io sin da piccola, diciamo, gli artisti che ascoltavo di più, che giravano di più a casa, erano Stevie Wonder, Aretha Franklin e poi in un secondo tempo anche Whitney Houston, insomma prevalentemente questo genere. Black, insomma. Sì, sì. Decisamente black. Sì, però poi le cose sono un po' cambiate, certo, nel tempo. È arrivata Janis Joplin, è arrivata la fase poi successiva ancora, sono arrivata Alanis Morissette, però poi dopo ho fatto un percorso al contrario, sono andata indietro a cercare appunto da dove sia nata proprio Alanis e quindi sono arrivata Janis Joplin e tutto quello che quindi un'opera di ricerca costruttiva e mattone su mattone, vedi che sì, anche perché per un certo periodo di tempo sono stata un po', diciamo, assolutista, che è un po' una caratteristica anche dell'età più giovane, ecco. Ero piccola, per me c'erano Stevie Wonder, Aretha Franklin, erano le mie certezze e tuttora quando li risento, come diceva Jacopo prima, sono quelle cose che quando senti dei pezzi tipo Overjoyed io non lo sento più con le orecchie, lo sento proprio con l'emozione di quando lo ascoltavo da piccola. Però poi dopo ho scoperto che, insomma, esistevano anche altre sfumature della mia personalità e quindi del mio gusto musicale. Bene, bene. Se ti metto questo in sottofondo... Eccolo. Eccolo qua, Stevie Wonder, tanto per ricordare quanto sta dicendo. È proprio Giorgia, una canzone legata a questa, non tanto a me quanto ai miei genitori. Infatti mi fa molto piacere perché è una carinissima coincidenza che hai scelto proprio questa. Ah, bene. È la prima che mi è venuta, tra le altre cose, in mezzo alle mille canzoni di Stevie Wonder. Vabbè, ma torniamo a far ascoltare ancora qualcosa dal disco di Jacopo Minio. Questa volta tocca un pezzo appunto dal CD che si intitola Con tutto il cuore. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sola, ma resisti sicura, non riesci a parlare di quello che sei. Mi vesto nervoso, la giacca che esplode, sveglia, ti squilla, saluto e poi via. Non parla il mio cuore, non riesco a ascoltare, viviamo a distanza, non vedo il dolore. Tu cerchi di entrare, io butto le chiavi, percorsi tortuosi, ti spingo ad uscire. Giornate pioggia, poi il sole. Riprovi la parte, le facce che incontri feriscono un po'. Persone lontane, ti serve un aiuto, ti serve calore, hai bisogno di me. Ma devo lottare per far vincere il cuore, limitare la mente, riuscire a sognare. Ti vedo soffrire, ma dentro cambiare, ti guida il coraggio. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Siamo ascoltati anche con tutto il cuore dal lavoro di Jacopo Minio che abbiamo presentato in questa trasmissione. Si intitola Speranza il CD e per saperne qualcosa di più si può entrare anche nel sito di Jacopo Minio. Lui vi dà il benvenuto e vi dirige verso tutta quella che è la sua operazione per far conoscere la sua musica all'interno del sito jacopominio.com. Giusto, hai detto bene. Intanto vi ringrazio perché trasmettere un pezzo come Con tutto il cuore, durata 5 minuti e 23, è una cosa che solo voi riuscite a fare con la vostra buona volontà e la vostra passione. Diciamo che siccome il pezzo si ascolta dall'inizio alla fine, quindi chi ci parla sopra viene punito. Infatti. E quindi l'abbiamo... Sono contento di questo. Diciamo, mi fa piacere anche citare una struttura che si chiama Zimbalam, che è il mio distributore della musica online, per cui si può acquistare il disco su iTunes e le varie piattaforme di compravendita di musica anche tramite delle strutture che ti portano al grande circuito, insomma, come Bene. Zimba. Ricordiamo anche gli altri musicisti che hanno partecipato nel tuo disco, oltre a Pericle Odierna, che ha suonato molte cose, a Giorgia Lepore, che ha dato la voce in due tracce. Ci sono ancora... Sì, infatti Pericle è un polistrumentista, ha suonato tante cose, Giorgia Lepore voce, poi Riccardo Corso, altro chitarrista molto bravo, e Dario Amabile al basso, per cui io in questo lavoro ho suonato a casa per poi, diciamo, far suonare quelli che forse suonano un attimo meglio. È possibile ad averli tutti e quattro in palcoscenico? È possibile, è assolutamente possibile, nelle date che ho fatto precedentemente... Ho suonato con una band elettrica, per cui insomma sono anche legato al fatto di riprodurre le cose non solo chitarra e voce ma con un gruppo, perché mi dà ancora più gusto ed emozione, per cui rimando tutti al sito internet jacopominio.com per eventuali successive e fortunate date, per cui state allerta. Bene. Insomma. Benissimo, allora noi abbiamo concluso la trasmissione con Jacopo Minio, sono le 22:25 e ringraziamo gli ascoltatori per essere stati in nostra compagnia, però augurando un buon rientro in quel di Roma a Jacopo e a Giorgia. Non ci lasciate immediatamente, no? Un'altra canzone? Beh, un'altra canzone ve la faccio volentieri, si chiama Come un'onda del mare, è un po' un momento di rientro nel grande mondo della musica dopo una sofferenza molto grande, Come un'onda del mare. Benissimo, allora grazie a Jacopo Minio, grazie a Giorgia Lepore per essere stati con noi. Allora, noi salutiamo Maurizio? Certamente. Bene, da parte di Flavio. E Maurizio Calzavara. Il solito grande caloroso ciao, buona serata a tutti, vi lasciamo con l'ultimo pezzo di Jacopo Minio e ancora grazie per essere stati con noi, ragazzi. Grazie. Grazie. Non farmi male, non farmi male, sono sopra l'altare di questo amore. Non dare forza alla tua mano, l'acciaio freddo che preme piano. Come un'onda del mare scivolerò, come l'onda del mare mi frangerò. Non farmi male, non provocare, devo guarire, non voglio uscire. Non so aspettare che passi il tempo, voglio chiarire, chiarificare. Come un'onda del mare mi frangerò, come l'onda del mare esploderò. L'amore che è stato ritorna nei sogni e nelle parole. Lo devi toccare, non tinger di sangue la porta di casa. Ti verrà a trovare con occhi di fuoco e darti gli taglienti. Tuo figlio per mano non vede il male che è dentro di te. Non farmi male, sono sopra l'altare di questo amore. Non dare forza alla tua mano, l'acciaio freddo che preme piano. Come un'onda del mare mi frangerò, come l'onda del mare scivolerò. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.